Giovanni Paolo II, Uomo e Donna, lo creò, primo ciclo, il principio, numero 4, il legame tra l'innocenza originaria e redenzione operata da Cristo. Cristo, rispondendo alla domanda sull'unità e indissolubilità del matrimonio, si è richiamato a ciò che sul tema del matrimonio è stato scritto nel libro della Genesi. Nelle due precedenti nostre riflessioni abbiamo sottoposto ad analisi sia il cosiddetto testo eloista, Genesi 1, sia quello yahvista, Genesi 2. Ora desideriamo trarre da queste analisi alcune conclusioni. Quando Cristo si riferisce al principio, chiede ai suoi interlocutori di superare in un certo senso il confine che nel libro della Genesi passa tra lo stato di innocenza originaria e quello di peccaminosità, iniziato con la caduta originale. Simbolicamente si può legare questo confine con l'albero della conoscenza del bene e del male, che nel testo yahvista delimita due situazioni diametralmente opposte, la situazione dell'innocenza originaria e quella del peccato originale. Queste situazioni hanno una propria dimensione nell'uomo, nel suo intimo, nella sua conoscenza, coscienza, scelta e decisione, e tutto ciò in rapporto a Dio Creatore, che nel testo yahvista, Genesi 2:3, è al tempo stesso il Dio dell'alleanza, della più antica alleanza del Creatore con la sua creatura, cioè con l'uomo. L'albero della conoscenza del bene e del male, come espressione e simbolo dell'alleanza con Dio, infranta nel cuore dell'uomo. Questo albero delimita e contrappone due situazioni e due stati diametralmente opposti, quello dell'innocenza originaria e quello del peccato originale, e insieme della peccaminosità ereditaria dell'uomo che ne deriva. Tuttavia, le parole di Cristo, che si riferiscono al principio, ci permettono di trovare nell'uomo una continuità essenziale e un legame tra questi due diversi stati o dimensioni dell'essere umano. Lo stato di peccato fa parte dell'uomo storico, sia di colui del quale leggiamo in Matteo 19, cioè dell'interlocutore di Cristo d'allora, sia pure d'ogni altro potenziale o attuale interlocutore di tutti i tempi della storia, e quindi naturalmente anche dell'uomo d'oggi. Quello stato però, lo stato storico appunto, in ogni uomo, senza alcuna eccezione, affonda le radici nella sua propria preistoria teologica, che è lo stato dell'innocenza originaria. Non si tratta qui di sola dialettica, le leggi del conoscere rispondono a quelle dell'essere. È impossibile capire lo stato di peccaminosità storica senza rifinirsi o richiamarsi, e Cristo infatti vi si richiama, allo stato di originaria, in un certo senso preistorica, e fondamentale innocenza. Il sorgere quindi della peccaminosità come stato, come dimensione dell'esistenza umana, è sin dagli inizi nel rapporto con questa reale innocenza dell'uomo come stato originario e fondamentale, come dimensione dell'essere creato a immagine di Dio. E così avviene non soltanto per il primo uomo, maschio e femmina, quali dramatis e persone e protagonisti delle vicende descritte nel testo yavista dei capitoli 2 e 3 della Genesi, ma anche per l'intero percorso storico dell'esistenza umana. L'uomo storico è dunque, per così dire, radicato nella sua preistoria teologica rivelata. E perciò ogni punto della sua peccaminosità storica si spiega, sia per l'anima che per il corpo, con il riferimento all'innocenza originaria. Si può dire che questo riferimento è coeredità del peccato e proprio del peccato originale. Se questo peccato significa in ogni uomo storico uno stato di grazia perduta, allora esso comporta pure un riferimento a quella grazia che era precisamente la grazia dell'innocenza originaria. Quando Cristo, secondo il capitolo 19 di Matteo, si richiama al principio, con questa espressione egli non indica soltanto lo stato di innocenza originaria quale orizzonte perduto dell'esistenza umana nella storia. Alle parole che egli pronunzia proprio con la sua bocca abbiamo il diritto di attribuire contemporaneamente tutta l'eloquenza del mistero della redenzione. Infatti, già nell'ambito dello stesso testo yavista di Genesi 2:3, siamo testimoni di quanto l'uomo maschio e femmina, dopo aver rotto l'alleanza originaria col suo creatore, riceve la prima promessa di redenzione nelle parole del cosiddetto protoevangelo in Genesi 3:15. E comincia a vivere nella prospettiva teologica della redenzione. Così dunque l'uomo storico, sia l'interlocutore di Cristo di quel tempo di cui parla Matteo 19, sia l'uomo di oggi, partecipa a questa prospettiva. Egli partecipa non soltanto alla storia della peccaminosità umana, come un soggetto ereditario e nello stesso tempo personale e ripetibile di questa storia, ma partecipa pure alla storia della salvezza, anche qui come suo soggetto e concreatore. Egli è quindi non soltanto chiuso a causa della sua peccaminosità riguardo all'innocenza originaria, ma è contemporaneamente aperto verso il mistero della redenzione che si è compiuta in Cristo e attraverso Cristo. Paolo, autore della lettera ai Romani, esprime questa prospettiva della redenzione nella quale vive l'uomo storico quando scrive: «Anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando la redenzione del nostro corpo», Romani 8:23. Non possiamo perdere di vista questa prospettiva mentre seguiamo le parole di Cristo, che nel colloquio sull'indissolubilità del matrimonio fa ricorso al principio. Se quel principio indicasse solo la creazione dell'uomo come maschio e femmina, se, come già abbiamo accennato, conducesse gli interlocutori solo attraverso il confine dello stato di peccato dell'uomo fino all'innocenza originaria e non aprisse contemporaneamente la prospettiva di una redenzione del corpo, la risposta di Cristo non sarebbe affatto intesa in modo adeguato. Proprio questa prospettiva della redenzione del corpo garantisce la continuità e l'unità tra lo stato ereditario del peccato dell'uomo e la sua innocenza originaria, sebbene questa innocenza sia stata storicamente da lui perduta in modo irrimediabile. È anche evidente che Cristo ha il massimo diritto di rispondere alla domanda postagli dai dottori della legge e dell'alleanza, come leggiamo in Matteo 19 e in Marco 10, e nella prospettiva della redenzione sulla quale poggia l'alleanza stessa. Se nel contesto sostanzialmente così delineato della teologia dell'uomo corpo, pensiamo al metodo delle analisi ulteriori circa la rivelazione del principio in cui è essenziale il riferimento ai primi capitoli del libro della Genesi, dobbiamo subito rivolgere la nostra attenzione ad un fattore che è particolarmente importante per l'interpretazione teologica, importante perché consiste nel rapporto tra rivelazione ed esperienza. Nell'interpretazione della rivelazione circa l'uomo e soprattutto circa il corpo, per ragioni comprensibili dobbiamo riferirci all'esperienza, poiché l'uomo corpo viene percepito da noi soprattutto nell'esperienza. Alla luce delle menzionate considerazioni fondamentali, abbiamo il pieno diritto di nutrire la convinzione che questa nostra esperienza storica deve, in un certo modo, fermarsi alle soglie dell'innocenza originaria dell'uomo, perché nei suoi confronti rimane inadeguata. Tuttavia, alla luce delle stesse considerazioni introduttive, dobbiamo arrivare alla convinzione che la nostra esperienza umana è, in questo caso, un mezzo in qualche modo legittimo per l'interpretazione teologica ed è in certo senso un indispensabile punto di riferimento al quale dobbiamo richiamarci nell'interpretazione del principio. L'analisi più particolareggiata del testo ci permetterà di averne una visione più chiara. Sembra che le parole della lettera ai Romani 8:23, orora citata, rendano nel modo migliore l'orientamento delle nostre ricerche incentrate sulla rivelazione di quel principio al quale si è riferito Cristo nel suo colloquio sull'indissolubilità del matrimonio, Matteo 19, Marco 10. Tutte le successive analisi che a questo proposito saranno fatte in base ai primi capitoli della Genesi rifletteranno quasi necessariamente la verità delle parole paoline. Noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando la redenzione del nostro corpo. Se ci mettiamo in questa posizione così profondamente concorde con l'esperienza, il principio deve parlarci con la grande ricchezza di luce che proviene dalla rivelazione, alla quale desidera rispondere soprattutto la teologia. Il seguito delle analisi ci spiegherà perché e in quale senso questa deve essere teologia del corpo. Note, la preistoria teologica è rivelata, cioè assolutamente indeducibile dall'analisi dell'esperienza storica dell'uomo. Tuttavia, vi è una singolare e gratuita concordanza tra la rivelazione e l'esperienza in ordine al fondamento costitutivo dell'esistenza umana. Essa appoggia sull'essere dell'uomo ad immagine di Dio, immagine che crea una continuità tra lo stato di natura integra, stato originario, e lo stato storico in cui vive ogni uomo, stato di natura decaduta e redenta.